Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera parliamo di un vizietto italiano della politica, di cui ci parla un acuto ed esperto osservatore delle cose politiche, che è stato sia studioso della politica sia partecipante diretto della vita politica, cioè Massimo Teodori. Il vizietto che Teodori imputa alla Prima Repubblica, anzi Prima e Seconda Repubblica, perché è un vizietto permanente, è quello del catto comunismo. E infatti il vizietto catto comunista è il titolo del libro di cui vi parlo, pubblicato da Marsilio, 174 pagine, 14 euro. Questa è la vera anomalia italiana, come recita il sottotitolo e titola il prologo del libro, e cioè l'egemonia tradizionale delle due forze, quella cattolica e quella comunista, che hanno reso l'esperienza italiana eccentrica rispetto a molti altri paesi. Il comunismo non poteva andare al governo in Italia perché aveva rinunciato sostanzialmente alla prospettiva socialdemocratica, mentre la DC continuava a governare praticamente senza opposizione. Allora il catto comunismo diventava un eufemismo per praticare una sorta di via italiana al socialismo. Con il Partito Democratico, alla fine del comunismo e tutto quello che è seguito, la situazione non è migliorata, e anzi, sì, scrive Teodori, nel 2000 l'unione di post comunisti e post democristiani nel Partito Democratico ha fatto definitivamente cadere l'ipotesi di una sinistra riformatrice di stile europeo a favore dell'alternativa cattolica. Ma che cosa rappresenta? Quanto è ancora forte? Quali sono i costi di questo vizietto? Lo chiediamo adesso all'autore. Buonasera Massimo Teodori. Buonasera. Massimo Teodori, il vizietto catto comunista è un vizietto che viene da lontano, addirittura lei prende le mosse da Togliatti. Sì, perché questo vizietto, o potremmo meglio dire una linea politica vera e propria, nasce proprio con il ritorno di Togliatti in Italia dopo la sua lunga permanenza a Mosca, quando nel marzo 1944 sbarca e decide che il Partito Comunista Italiano non deve più essere una setta rivoluzionaria, ma un partito nazionale popolare, possibilmente con l'abbraccio della Chiesa. E nella Prima Repubblica poi questo vizietto, questa politica, culmina con il compromesso storico. Sì, il secondo capitolo importante è quello di Berlinguer, che in un certo senso è una continuità ma anche una cosa diversa da quella di Togliatti, nel senso che Togliatti pensava in maniera molto tattica che gli era necessario l'abbraccio con la Democrazia Cristiana e con la Chiesa per oscurare i suoi legami con Mosca e presentare una fasulla via italiana al socialismo fatta di moderatismo, mentre con Berlinguer siamo a un livello teorico in cui si teorizza, secondo quello che poi aveva teorizzato Rodano, Franco Rodano, che cristiani e marxisti dovrebbero fondersi per fondare una società organica in cui scompaiono tutti quanti i conflitti, quindi è una cosa molto più grave. Ecco, parliamo delle due anime del catto comunismo e partiamo dal movimento cattolico. Lei nel suo libro sottolinea la forte presenza all'interno di questo movimento di movimenti che erano molto favorevoli ai comunisti, cattolici comunisti, cristiano sociali, cattolici indipendenti di sinistra. Che cosa trovavano questi cattolici nel Partito Comunista di allora? Beh, c'è tutto un filone che è appunto quello che originariamente era quello dei catto comunisti, ma poi diventa una parte degli indipendenti di sinistra, una parte del dissenso ecclesiale, la sinistra democristiana nelle sue varie facce, e sono tutte quante delle correnti che sono state molto forti, che pensavano che comunque l'Italia doveva e poteva essere governata soltanto con un accordo con la forza marxista, un accordo, diciamo, che si fondava su degli elementi antimoderni, cioè l'antimodernismo, l'anticapitalismo, l'antiliberalismo erano sostanzialmente i tre quattro fattori che univano la tradizione comunista con quella cattolica, e vicendevolmente si potenziavano nella maniera peggiore. E invece nel movimento comunista, quando il comunismo è finito e le speranze della rivoluzione sono cessate del tutto, per quali ragioni i postcomunisti hanno scelto questa linea, quella di trovare l'accordo con quello che rimaneva del Partito Cattolico, anziché di sposare decisamente la socialdemocrazia? Beh, hanno scelto i postcomunisti di fare il connubio con i postdemocristiani, cosa che avverrà in tutto e per tutto con la fondazione del Partito Democratico nel 2007, perché in realtà i veri nemici sia della sinistra democristiana, della sinistra cattolica, sia della maggior parte del Partito dei Comunisti Italiani, i veri nemici erano l'anima riformatrice sia nella sua componente socialista non frontista, sia nella sua componente democratica liberale. E questi storicamente sono stati gli avversari che sia l'una chiesa che l'altra chiesa hanno sempre combattuto fin da Togliatti, anche se in maniera diversa, e che tutt'oggi rappresentano i perni dei nuovi equilibri politici. Ecco, venendo all'oggi, lei come epilogo di questa vicenda mette due nomi, Renzi e Mattarella, due nomi autorevoli, importanti. Che cosa rappresentano in questa tradizione il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica attuali? Il Presidente della Repubblica è un'ottima persona, certamente, però è l'espressione più autentica nella sua cultura, nella sua formazione, nella sua collocazione politica, della sua lunga carriera di cattolici molto vicini alla tradizione comunista, e questo lo si vede in molti suoi atti. Renzi rappresenta qualcosa di più ambiguo, perché lui non ha una profondità di vedute, è un personaggio con i suoi pregi, soprattutto per quello che riguarda la liquidazione dei vecchi scorie del Partito Comunista, ma soprattutto è un tattico, e come tattico però si vede molto l'impronta, che è l'impronta della sua nascita, la sua carriera politica, che è quella nella sinistra democristiana. E quindi questa tendenza, secondo lei, ha tutte le premesse per andare avanti festosamente? Mi pare che oggi tutti quanti i residui del mondo riformatore, sia di origine socialista liberale che democratica liberale, siano in ambito politico, siano spazzati via, nonostante che poi la storia dimostri che da un punto di vista storico e culturale sono le correnti che hanno vinto nel 2000. Ma in Italia, e questo non è un caso che io chiamo il mio libro La vera anomalia italiana, ma in Italia in realtà è l'unico paese in cui queste correnti, sia il lato liberale che il lato socialista, sono in realtà sempre più marginali. Come mai questa debolezza di queste forme riformatrici, di queste forze riformatrici, riformiste, che all'estero invece appunto hanno dominato il resto dell'Europa? La mia tesi è che le varie correnti liberale, democratico-liberali, socialisti liberali, socialisti riformisti, eccetera, si sono sempre combattuto l'un l'altro, cioè hanno combattuto l'uno o quello che era più vicino a se stesso, piuttosto che pensare ad unirsi in un fronte riformatore, liberale e socialista per affrontare le due grandi potenze, le due grandi superpotenze, diremmo in termini internazionali, cioè quello della Chiesa e della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista dall'altro lato. E poi l'estremo individualismo, che è stato anche la caratteristica dei leader, e sono stati dei leader molto importanti del mondo, sia del mondo laico che del mondo socialista. Quindi il Partito della Nazione di cui parla Renzi in fondo è l'erede di quella tendenza alla Brassonnù. Io credo di sì, ma il Partito della Nazione è un'idea molto confusa e piuttosto uno slogan, come lo sono molte cose di Renzi. Poi che cosa nasce dagli slogan? Se nasce una tendenza politica che si trasforma strada facendo, questo non possiamo dirlo. Ma secondo lei questa tendenza ha un radicamento forte nella società, nella cultura politica italiana? Non lo ha più perché la società italiana, nel bene e nel male, è profondamente secolarizzata, è profondamente, ha delle aspettative di riforma e di protesta contro i caratteri consociativi, come oggi lo si vede anche da un fenomeno come il Grillino, che certamente è un fenomeno di protesta con i suoi lati qualunquisti, eccetera, ma è anche un segno dell'avversione al consociativismo, di cui sia i filoni principali del mondo cattolico che di quello comunista sono stati gli interpreti. Grazie a Massimo Teodori, autore del Il Vizietto, Catto Comunista. Buona serata. Buonasera. Abbiamo parlato della debolezza dell'alternativa al cattocomunismo, cioè delle forze laiche liberali. Allora parliamo di tre libri di cultura liberale. Il primo è quello di Carlo Scognamiglio Pasini ed Enrico Musso, che si intitola Rivoluzione liberale, come si fa? È pubblicato da De Ferrari, 214 pagine, 12,90 €. Che si propone, attraverso una serie di saggi di vari autori, di offrire le ricette per un coraggioso riformismo di stampo liberale che miri alla riduzione della presenza dello Stato, alla riduzione della spesa pubblica, alla riduzione del carico fiscale. Un altro manifesto è quello di Corrado Ocone, che si intitola Il liberale che non c'è, pubblicato da Castelvecchi, 124 pagine, 16 €. Anche qui vari autori di scuola liberale fanno alcune proposte per costruire una politica liberale. Il liberalismo, spiega Ocone, è più che un partito, è un elemento culturale che mette sempre in discussione le soluzioni di volta in volta adottate. Il liberale, scrive Ocone, ha costantemente bisogno del negativo, della critica, di chi lo contraddice, è sempre attento a coltivare il non conformismo, la dissidenza, l'eresia. Vi sembra questa una virtù o una mentalità diffusa in Italia, in una terra di fazioni e campanili sedimentatisi nella storia? Domanda evidentemente retorica. E infatti il liberalismo è un metodo, come spiega un altro studioso liberale, Ernesto Paolozzi, che ha scritto Il liberalismo come metodo, pubblicato da Kairos, 128 pagine, 14 €. Nel quale lo studioso approfondisce la natura del liberalismo e il rapporto di questo con la democrazia, la verità e il progresso. E a questo punto sospendiamo un momento e ci sentiamo fra pochi secondi. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Sechi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schifani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Domenica scorsa si è concluso, nel modo che sapete, il moto mondiale. Allora salutiamo Valentino Rossi col libro che gli dedica Giorgio Terruzzi. Grazie Valentino. Lettera a un campione infinito, pubblicato da Rizzoli, 186 pagine, 12 €. L'autore è un giornalista e scrittore specializzato in cose sportive, che si rivolge al campione descrivendo le emozioni che è stato e rimane in grado di assicurare. Perciò gli scrive, spiega, per dirgli grazie, senza badare a come finirà la stagione, ma per esprimere la gratitudine. Per che cosa? Per il piacere regalato, persino in attesa, addirittura non dovuto e ampiamente condiviso, così scrive Terruzzi. Con Valentino, scrive l'autore, siamo tutti partecipi, con lui diventiamo leggermente incoscienti, più coraggiosi. E l'autore qui ricostruisce la carriera del campione a partire da Tavuglia, il borgo d'origine di Valentino, con una carrellata anche sui principali avversari, la sottolineatura del rapporto che Valentino Rossi è riuscito a creare con il pubblico, un rapporto basato su una personalità che lo scrittore così riassume. Hai conservato nel tempo, a quanto pare, qualche allergia alla fatica quando viene il momento della qualifica, mentre in gara ogni impedimento sembra scomparire, cancellato dalle risorse che produce l'agonismo. Forse è anche una questione di forze, più dosate, in relazione a una necessità, un'impellenza precisa. Forse continui a fidarti di quella ferocia che tante volte ha prodotto exploit straordinari. La vista di un avversario che scappa e che non deve farla franca per nessuna ragione. La fame che non si placa del tutto, ma si fa sentire nei momenti cruciali. Cambiamo disciplina con Gianni Clerici, anch'egli un famoso giornalista di sport, in particolare di tennis, al quale ha dedicato romanzi e testi teatrali, e ci racconta la sua carriera, Gianni Clerici, nel libro Quello del tennis, storia della mia vita e di uomini più noti di me, pubblicato da Mondadori, 200 pagine, 20 €. Clerici è tennista dall'età di 6 anni ed è riconosciuto a livello internazionale come uno dei grandi esperti e divulgatori di questo sport, che condizionò fin da giovane la sua vita con degli ammaestramenti che si rivelarono decisivi per la sua vita e che descrive così nelle righe che adesso vi propongo. Senza quel gioco magico non avrei probabilmente appreso tante lezioni fondamentali. Per esempio la quotidiana ripetitività dei gesti, indispensabile a ballerini, soldati, religiosi. La necessità di prescindere da una buona condizione fisica per affrontare egualmente gli allenamenti e soprattutto le gare. l'abitudine a non trovarsi scuse, anche quando sussistono buone ragioni per essere ascoltato, compatito. La capacità di giudicarsi senza tener conto delle opinioni altrui, di amici, tifosi o giornalisti che siano. Infine, massimo risultato cui si arriva dopo molte gare e molte esperienze, la lezione più importante. La rivelazione che la partita non si svolge contro un antagonista, perché tutto accade dentro di noi. E noi stessi siamo il nostro avversario più temibile, spesso addirittura un nemico mascherato. E nel libro troviamo una storia di questo rapporto con il tennis, punteggiato naturalmente dall'incontro con tanti grandi, per esempio il noto scrittore tennista Giorgio Bassani e tanti altri. Un campione che racconta la propria vita è Armin Zöglerer, il pluripremiato nello slittino che con Simone Battaggia, cronista di sport, ha scritto Ghiaccio, Acciaio, Anima, e pubblicato da Mondadori, 224 pagine, 18 euro. Questa di Zöglerer è una storia profondamente intrecciata con il Maso, quello vicino a Foiana, in Val d'Ultimo, nel quale Armin nasce e vive, alzandosi alle 5 e mezzo del mattino, ancora bambino, per cominciare la sua giornata. E da qui muoverà, da quel Maso, i primi passi di una carriera strabiliante che gli ha fatto vincere 6 medaglie, fra cui 2 ori in 3 Olimpiadi e 10 Coppe del Mondo. Una carriera basata anche sulle innovazioni che hanno trasformato lo slittino. E adesso vi parlo di 2 romanzi di ambientazione sportiva ed olimpionica. Il primo è di Daniel James Brown, che è uno scrittore americano. Erano ragazzi in barca, la vera storia della squadra di canottaggio che umiliò Hitler, pubblicato da Mondadori, 470 pagine, 22 euro, ed è tradotto da Manuela Faimani. Per la verità questa è una ricostruzione che si legge come un romanzo, è l'appassionata e documentata ricostruzione di una grande pagina sportiva, ossia la vittoria americana alle Olimpiadi del 1936, le celebrate Olimpiadi di Berlino, vittoria americana nel canottaggio. 9 ragazzi dello stato di Washington sconfissero in quella occasione gli inglesi, che erano i super favoriti, ma soprattutto le 2 squadre, tedesca e italiana. Gli italiani arrivarono secondi, staccati di pochi decimi di secondo, e con quella vittoria gli 8 diventarono gli autentici eroi nazionali del momento in America. Anche grazie alle immagini che troviamo in questo libro seguiamo la lunga preparazione dei 9 ragazzi, la descrizione dell'ambiente di provincia nel quale erano cresciuti e la dedizione che diedero per compiere questa impresa. E quindi la gara e la storia appassionanti sono rievocati in questo libro per sottolineare il significato che quella vittoria assunse in quel momento storico per gli Stati Uniti, un significato che così ci viene presentato. In tutta l'America, milioni di persone che non avevano quasi sentito parlare di Seattle prima della regata di Poughkeepsie, persone che sarebbero dovute andare al lavoro più tardi quel venerdì mattina, se erano abbastanza fortunate da avere un lavoro, persone che avrebbero dovuto occuparsi della fattoria, se erano abbastanza fortunate da avere ancora una fattoria, cominciarono ad armeggiare con le manopole della radio. La vicenda di Jesse Owens aveva già galvanizzato gran parte della nazione, chiarendo quale fosse esattamente la posta in gioco in quelle Olimpiadi. Ora l'America aspettava di vedere se i turbolenti ragazzi dello stato di Washington avrebbero scritto un altro capitolo di storia. Quelle drammatiche Olimpiadi del 36 sono ricostruite nel loro complesso da Federico Buffa e Paolo Frusca, il primo esperto di basket, il secondo è uno storico appassionato di calcio. L'ultima estate di Berlino, è pubblicato da Rizzoli, 302 pagine, 18 euro. Frusca ha anche realizzato uno spettacolo teatrale dedicato a questi eventi, e il libro racconta di un soldato nazista di cui si scoprono le origini ebraiche. Egli resterà in una posizione defilata di secondo piano al villaggio olimpico, da dove osserverà non soltanto le Olimpiadi ma soprattutto la discesa del suo paese negli abissi, che lo spingerà poi a una decisione definitiva. Il secondo romanzo di cui vi parlavo è un libro italiano, si intitola Lo spareggio, di Stefano Ferrio, giornalista e scrittore, pubblicato da Nutrimenti, 208 pagine, 15 euro. Qui siamo dunque nel calcio e questa è la cronaca di una partita speciale che scorre sulle pagine minuto per minuto. Siamo agli inizi del 2000 in una città di provincia. In campo non ci sono grandi squadroni ma delle squadre che sono chiamate a un appuntamento importante. L'incontro insomma assume un particolare valore sia per la squadra ma anche per i protagonisti della storia che ruota intorno a questo spareggio. Lo spareggio, per esempio, vale anche per uno dei protagonisti, che è diviso tra l'assistere alla partita e il far capitolare un antico amore di gioventù. Il libro ci presenta i protagonisti di questa storia e poi, a partire dalle ore 14, la partita, che si snoda attraverso la descrizione della vita di provincia di questi personaggi. Uno svolgimento originale che rende bene la passione divorante dello sport, che diventa anche sintesi di tante vite, di tanti problemi, di tanta umanità e anche di tante ambizioni di provincia che tentano magari di emulare le gesta dei finanzieri delle grandi città, come ci dicono queste righe che vi propongo. Tramite un certo Furlanetto, magnate dell'import-export con l'Oriente, Tombolato e altri imprenditori locali erano giunti a formare una sorta di società di garanti in grado di assicurare la convenienza dell'affare a Yung Cheong. Era infatti notorio che il magnate coreano dell'oro nero era intenzionato a operare una personale colonizzazione del calcio italiano, dove trapiantare il suo modello di stadio introdotto in Corea, puntato su campi da gioco coperti, attorniati da tribune che erano nello stesso tempo sale scommesse. Ciò che Angelo non poteva sapere era che i bianco-blu costituivano, in caso di promozione, la prima tappa ideale di un percorso del genere. Perché i veneti, gli spiegava Beatrice, mettono assieme un brand di provata tradizione, sono garanti dei migliori valori legati alla provincia, al made in Italy più schietto, al nazional popolare che non tramonta mai. Con la ferale precisazione che, se perdono lo spareggio, dalla Corea non si muove un centesimo e Kogo sarebbe costretto a far fallire la società. Ciò significherebbe retrocessione nei campionati provinciali e galera assicurata a lui e al cugino dopo lo scandalo dell'impianto di illuminazione, costato 2,5 milioni di euro. E a questo punto... il confettino. Rimaniamo in ambito sportivo con una gara tutta particolare che riguarda gli animali. Sono quelli che partecipano alla gara, questo è il titolo del libro di Paola Ancillotto, illustrata da Tiziana Furlan, pubblicato da Valentina Edizioni, 11,90 euro, nella quale troviamo appunto la cronaca di una gara appassionante nella savana per decidere chi dovrà esserne il re. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Andrea Roccabella e regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.